gruppo che abbiamo preso a botte, gangbangato Pseudo Celso, che non è diventato, cioè la creatura che ha preso possesso Pseudo Celso, che è nata da Pseudo Celso, e un altro Nadiro, raccattiamo dei... Non so più parlare, scusate, raccattiamo degli strumenti e un cristallo magico dopo che abbiamo capito che bisognava inserire la Void Coin, che avevamo droppato l'altra volta. È praticamente questo cristallo che ti guarisce da tutti i Valus. Andiamo avanti, oltre la tomba di Pseudo Celso, la nebbia si infittisce e dopo poco ci rendiamo conto che siamo intrappolati in questo loop temporale. Che poi scopriamo che farà da protezione al tempio. E una volta che riusciamo a superarli dopo tentativi, grazie al Lieto, appunto, riusciamo ad arrivare a questo tempio che è esteticamente diverso. Il tempio di Arva è esteticamente diverso rispetto agli altri, ha molti più particolari in bronzo, particolari meccanici. E veniamo a conoscenza con questa setta che si chiamano i Timekeepers. Sono coloro che registrano tutte le anomalie temporali. Cos'è che sono le anomalie temporali? Sono quando il tempo scorre in una maniera anormale, sono date da fonti esterne al mondo. E poi, E vabbè, è scorre in uscito maniera fuori che. normale a causa di robe esterne dal mondo. Esatto, Nel senso vabbè, che, insieme sono la stessa cosa, dai, no, insomma. perché se tu casti Hasten, il tempo scorre più velocemente per te, ma non è un'anomalia dei Timekeepers. Sì, appunto, sono date da fonti esterne al Sì, mondo. no, no. Quella è una fonte interna, perché hai castato... Sì, Cioè, dico, non le è... due frasi sono collegate. Tu le hai dette sembravano separate. Invece, beh, No, no, è perché sono i miei... le mie... ok, scusami. gli appunti che My sono... bad. Veniamo anche a sapere che l'uomo che ride è detto... è conosciuto anche come il polpo delle biblioteche, è un'entità... che viene fuori dal mondo ed è stata descritta come maligna e che vuole portare l'apocalisse, ma non nel modo in cui lo intende l'essere umano, ma in un mondo ancora peggiore, a quanto pare. Ok, perfetto, a posto. È una cosa che non si può contenere, quindi ci attacchiamo al cazzo e basta. E per ricordarsi le anomalie temporali bisogna essere associati in qualche modo al tempo, e solo che stavamo parlando con questo stronzo ad una certa, arriva Delfo. Arriva Delfo che mette via un bellissimo libro, si gira verso Nibel e vorrebbe fare il meme di quello Peace I'm out, però non ce lo riesce a fare. Per me possiamo riprendere da qua. Vuoi setappare prima cosa succede ad Adone oppure... Adone infatti. non se ne va, rimane lì con voi ed è diventato silenzioso dopo che il tizio che vi stava raccontando ha detto qualcosa. È come se ci facevate caso, l'avete proprio visto che ha fatto tipo uno scatto, cioè gli è cambiata l'espressione sul viso da un momento all'altro. Però non sapreste pinpointare qual è la cosa che ha detto, che l'ha fatto scattare. Semplicemente non è davanti al gruppo, è dietro. E se ogni tanto vi girate a guardarlo, prima era il solito Adone, e dopo un certo punto diventa molto più serio, molto più stoico e molto più concentrato. Non Nibel non ci fa caso. Sì, infatti è per questo che vi dico, se non avete motivo di girarvi a controllarlo, per voi è silenzioso, ma non sta succedendo nulla di particolare. Io addirittura penso che... sì, buonanotte, stavo dicendo Nibel, non si... Mif non si sia nemmeno accorta di Adelfo, cioè... A meno che No, no, ci proprio sta. urlato. Per voi era, Cioè... per te era un tizio. un tizio che passa, ok? Cioè, più che altro lei è concentrata su quello che gli sta dicendo, insomma, questo membro Ed è della setta. abbastanza nondescript che l'avresti confuso per uno qualunque degli altri tizi che hai visto finora. Ma infatti, sì, non sa come è fatto, quindi abbastanza chill la situazione. L'ultima cosa che ha detto è tipo come mi hai trovato, se non ricordo male. Nibel lo sta fissando con gli occhi sgranati, e ha tipo gli orecchie, i suoni ovattati, sente solo fischiare in questo momento. e si sta alzando la pressione nel sangue. E Ica che si è bloccato. Sì. Sì. Pensavo fosse solo molto fermo. No, no, si è proprio bloccato. Scusa. Time froze anche lui, come... Zop, No, zop. un'anomalia. Polizia! Possiamo andare avanti per sta cosa soltanto e ti dico che Adelfo è a Deering di Headlight, quindi non ha nessuna reazione, rimane perfettamente immobile. La sentiamo noi questa interaction? Sì, Oppure... di vicino. Ok. Nibel fa dei passi lentamente, si avvicina verso di lui, non distoglie lo sguardo. Vedendo che non stai dicendo niente, non stai facendo nulla, balbetta e aggiunge: so quello che è sembrato, ma non sono scappato da te. Sai che per questi anni non ho avuto una foto né niente. Ho perso tutto. E per questi anni ho cominciato a dimenticare il loro volto, di mia moglie e di mia figlia. Però per qualche motivo il tuo è sempre stato inciso a fuoco nella mia mente. Rubarti i soldi è stata una mossa da stronzo, ne sono consapevole, ma non avevo altro modo di andarmene. Rubarmi i soldi è stato il minimo. La cosa peggiore è stata condannare a morte la mia famiglia, Adelfo. Fa un'espressione di disgusto, però la cerca di nascondere, la cambia subito, come se non si vergognasse delle sue stesse emozioni. Quindi non sai niente, immagino. Cos'altro dovrei sapere che già non so? Visto che sei venuto fin qua, non credo che te ne andrai senza sapere la verità, no? Sei perspicace. Fanculo. Se sei pronto a rovinarti la vita, ti dirò tutto. Più di quanto sia già rovinata? Non ne hai idea. Prego. Tanti anni fa, ti ricordi quando siamo andati insieme nella centrale? Mi ricordo, sì. Era, come avrai intuito, avevo un altro motivo per fare quello che ho fatto. Avevo dei debiti con della brutta gente, per cui mi sono fatto convincere a fare una cosa stupida e pericolosa. Mi sono fatto convincere a rubare i segreti della centrale e a venderli alla corona. Mi avevano promesso di estinguere i miei debiti e darmi anche una somma che mi avrebbe permesso di uscire dal giro. Lo vedi che balbetta, che trema, che si guarda intorno, esagera tutto quello che sto facendo io. Mi hanno dato istruzioni precise su come avrei dovuto manomettere le loro apparecchiature e su come entrare nelle aree segrete che normalmente sono chiuse al pubblico e che ti fanno firmare un contratto per evitare che chiunque ci si avvicini. Dei del cielo, ho visto tutto il marcio che c'è nel nostro mondo quel giorno. Le bugie su cui si regge tutto il mondo. Forse per un attimo dovevo essere impazzito. E poi è venuta fuori lei. Ti ricordi la mucca l'ossa? Sì. Va bene. lei ha scoperto tutto quello che stavo cercando di fare, i crimini che avrei ordito, e credo che se avesse rivelato il tutto mi avrebbero dato la pena di morte o qualcosa di simile. Ma invece di uccidermi e basta, ha pensato che le sarei potuto essere utile. Ero decisamente alle strette, non avevo alternative, non potevo andare da un'altra parte o nascondermi. Mi disse che dovevo solo fare una cosa per lei, una cosa, e poi sarebbe stato tutto a posto, non avrebbe chiamato le guardie, non avrebbe fatto nulla. Dovevo solo piantare una spora nei campi, insieme alle piante che abbiamo coltivato. Una spora. Io non ci capisco un cazzo di piante, di magia di questo genere, e pensavo che sarebbe stato solo una specie di esperimento, un modo per farlo crescere prima, farlo crescere meglio. Pensavo, Nibel. Non pensavo. Non pensavi, eh? Non ti è venuto minimamente il dubbio che una persona del genere potesse, non lo so, fare qualcosa di brutto? Non al punto in cui poi è stato. Vedi, l'ho capito veramente troppo tardi, ma quella troia mi ha dato un veleno a lento rilascio. Un veleno che ti sta indicando nelle parti corrotte dai funghi. Ti ha reso così e ha ucciso tua figlia. Ti giuro che non lo sapevo. Appena ho intuito di cosa si trattava e che ormai era troppo tardi, ho perso completamente la ragione. Nel panico ho rubato tutti i soldi che sono riuscito a trovare e sono scappato lontano, in un posto dove non mi avrebbero trovato facilmente. Esboson. Volevo andare in Nadiria, giuro, ma a metà strada avevo già finito i soldi e mi sono trovato un lavoro al mercato. Volevo fare abbastanza soldi da poter continuare il viaggio e sparire in un posto dove nessuno mi sarebbe venuto a cercare. Ma dopo un po' che lavoravo qui, ho scoperto questo culto, questo tempio. Mi hanno detto che era per chi stava fuggendo dal mondo e che mi avrebbero offerto una nuova vita. Era quello di cui avevo bisogno, d'altronde pensavo di doverli pagare, mi ero preso delle mana unit dal tizio del mercato e loro non hanno voluto niente. Ho sepolto i miei soldi nella cassa comune e facciamo voto di povertà e di non spendere niente, per cui puoi prendere tutto quello che vuoi. Idea di quante persone dovresti ripagare. So che a nessuno ha sofferto più di te, però. È tutto quello che hai da dirmi su questa storia? Quasi. Non so quali strane cose girino intorno alla Mukelos, ma è molto più potente di quello che sembra. E è fissata con le previsioni del futuro, con i sistemi di lettura del futuro. Ironico che io sia finito in un tempio del dio del tempo. E deve aver ricevuto una lettura, un presagio, un oracolo di qualche genere, e che una giovane donna l'avrebbe portata a perdere tutto, per quello. Una giovane donna di umili natali, per quello ha causato la morte di tua figlia. Per quale motivo? Credeva fosse la principessa, una nuova principessa? sono certo. La sua idea è che semplicemente deve assicurarsi che nessuno possa usurpare il suo ruolo. E probabilmente tua figlia aveva qualche segno zodiacale o altre cose del genere che la preoccupavano. Sai che fino ad ora ho creduto che... ho sperato, forse. Che quello che è successo nei campi e la mia famiglia fosse semplicemente un errore, un incidente. Quindi dimmi tu come dovrei sentirmi in questo modo, ora che so che era tutto calcolato, era tutto voluto e che tu hai partecipato a questa farsa. Ti guarda dritto negli occhi per la prima volta, perché finora il suo sguardo rimbalzava da un lato all'altro, e ti dice: al posto tuo farei una carneficina. Sono tanto così dal farlo. Credo di aver pagato il mio debito con il mondo. La mia anima è libera da ogni peso. Il tempo che ho passato come monaco qua e questo momento catartico mi hanno liberato da tutto. Si inginocchia e guarda per terra. Fai quello che vuoi. Quindi mi stai dicendo che tu non hai più niente da offrire se non la tua anima? E i soldi che ti ho lasciato da parte. Ad un uomo morto non servono i soldi. Dove pensi che finisca l'anima una volta morti? Nonostante la mia adesione al tempio, lungi da me essere un tipo spirituale o interessato ai temi di fede, da quello che ho capito, le anime semplicemente smettono di esistere. Sai che conosco due persone che sono capaci di mangiarle? Alza lo sguardo e dice: da quando sono qui ho letto delle cose veramente assurde, quindi è difficile sorprendermi. Guarda gli altri tre e cerca di capire di chi stai parlando. Quattro, c'è anche Cici. Guarda me, non loro. Toglie subito lo sguardo e... Sai cosa sta succedendo all'isola? Sappiamo che l'arrivo di Senic era stato previsto. E anche altri eventi. Ma di preciso cosa succederà, no, non lo sappiamo. Quindi saprai anche che la Mucelos e il capo della Corona Nera sono qui. Ti guarda colpito, sorpreso. Questo mi sorprende. Sto prendendo tempo. Sto cercando in tutti i modi di trovare il metodo peggiore per farti sparire da questa terra. L'altro monaco, che finora è rimasto in silenzio dandovi un momento, con il tono pacato e tranquillo che aveva anche prima, dice: vi chiederei di non macchiare la sacralità del tempio. Io Nivel si tocca la mano destra, il guanto col guanto in mano, si tocca il palmo, si gira il pollice attorno al palmo, sulla moneta che tiene nel guanto da qualche giorno ormai. Dimmi dov'è la cassa comune. Ho della gente da ripagare. Il mio fratello ti mostrerà la stanza del tesoro. È in un anfratto di questo tempio. Ci sono tutti i beni di tutti i fratelli che abbiamo lasciato lì. Gli passo di fianco, tipo. Mi tolgo la moneta dal guanto e me la rimetto in tasca. Lui rimane in ginocchio e quando passi over, sei a 3-4 passi più in là, si mette a piangere e si butta in terra. E esco fuori dalla libreria. Chiedo a Mif e a Lieto cosa hanno fatto finora e che cosa fanno adesso. Era tutto molto interessante. Nibel, me lo posso mangiare? Per quello che vuoi. No, allora non mi interessa. Mi sono rimasto ad ascoltare in silenzio e si rivolge verso Delph e fa: beh, in realtà certi peccati secondo me non li hai ancora espiati. Sta Insomma. piangendo, quindi non è proprio in un... Esatto, no. Tipo si china al suo livello, no? E fa: ti è stato detto che c'era Mucheros e la... insomma, chi di dovere della Corona Nera, magari potresti fare qualcosa a riguardo, no? Penso che la pietà di Nibel si possa guadagnare. Tra i singhiozzi e il pianto che continua, riesce a sussurrare: se ci fosse stato qualcosa che potevo fare, pensate che sarei venuto qui? C'erano tanti modi diversi per poter fare quello che hai fatto. Hai scelto il peggiore. Voi non conoscete la Mucros? In realtà sì, l'abbiamo conosciuta la Mucheros. Non avete visto quello che sa fare? Tu non sai cosa dobbiamo fare noi. Prego per voi che basti. Basterà. Basterà. Si gira verso quell'altro fratello e fa: sono in ordine alfa. Sì, sono in ordine. È Quell'altro andato sta via quell'altro. accompagnando Nibel alla stanza del tesoro. Mif, che proprio si gira e fa: tocca chiederlo a te. Sono in ordine di tempo? Giusto. Lui batte la mano per terra, si asciuga le lacrime, si sfrega la faccia e dice: cerchiamo di tenerli in ordine cronologico, ma data la loro natura, questo è spesso difficile, se non impossibile. Avete magari anomalie temporali risalenti al periodo nero? Quello dove non ci sono scritti, non ci sono notizie a riguardo. Si alza in piedi, si mette a posto i vestiti. Rispetto a te è molto più alto. Cioè, anche se è magro, anche Ci se... vuole poco. Sì, no, ma è, cioè, tipo 30 centimetri più alto di me, 35 centimetri più alto di me. Dici intorno al 500. Sì, prima della centrale. Il magister che si occupa di salvaguardare questo luogo ha cancellato i registri. Tu credi che li abbia cancellati davvero? No, i miei fratelli si occupano di ricopiarli, ricopiarli, ricopiarli finché non li sanno a memoria. Alcune cose le abbiamo recuperate. Niente di Avete particolarmente qualcosa? interessante. non interessante per te, ma magari per me sì. E tuo fratello? Tuo qua? Non so come chiamarlo. Ha detto che i vostri antenati cercavano modi per arginare queste cose esterne. Ce li hanno scritti da qualche parte? Loro non scrivevano. Per Ramadan? Per diversi secoli il nostro è stato un ordine di sicari. Oh? Io che guardo dietro tipo... Ok. L'altro fratello penso abbia tentato di edulcorare la verità. Chi uccidevano? Tutte le anomalie. Di tutti quelli presenti all'interno delle anomalie? Sì, le cause delle anomalie in genere sono individui. Ah. Quindi ammazzavate qualcosa esterno al nostro mondo? Cioè, ammazzavano. Quindi ci sono i metodi per farli fuori. Finché a un certo punto non si sono accorti che era più facile peggiorare la situazione che risolverla. E da lì è nato il nostro culto nuovo, con il solo scopo di raccogliere tutte le informazioni possibili così che un giorno qualcuno possa effettivamente aggiustare il mondo. E secondo voi com'è che si dovrebbe aggiustare il mondo? A questa domanda, wow, risponde Adone. Ah. Mi leggo i capelli per entrare nel personaggio. Non da fare un pochino, quindi... sciolti. No, no, ce li ha... No, da quando avete sterilizzato Desboson ce li ha sciolti. Ah, sì. Ok. Adesso se li rilega e diventa come nell'immagine originale. Abone con la B. Sì. Ed è Adone a dire come si aggiusta il mondo. Credo che il mondo sia un organismo vivente, soggetto agli effetti della magia e alterato da essi. Quando la quantità di magia nel mondo supera la soglia critica, cambia forma e diventa qualcos'altro. E se è come gli animali che abbiamo incontrato, come i mostri che abbiamo incontrato, non saprà quando fermarsi. Non hai risposto alla mia domanda. Cioè, proprio Deadpan, non mi hai risposto alla domanda. Io penso che il nostro amico intenda che rimuovendo la magia si risolve il problema. E allora dovremmo rimuovere anche voi due. Mi dispiacerebbe che lo facessi, ma sembro molto difficile da rimuovere. Avete entrambi il vibe che Adone sia diverso dal solito, eh? Ok. Ok, caro. Questo posto sembra avere un legame con me. E sto cercando di evitare che mi ingoi. Questo è molto da Adone. Beh, Adone, basta chiedere, insomma, se vuoi morire. Cioè, osservare. Lo posso fare, nel senso, non è un problema, ti ho già dimostrato. Questo è quello che mi fai tutto il tempo. No. Che è possibile. Non serve. Immagino volessi fare ricerca su questa fonte inesauribile di conoscenza. Vedere quante cagate sparano e quante verità ci sono nascoste. Ci è concesso? Potete fare quello che volete. Io torno ai miei compiti. E adesso... È tutto aperto... Ok. Quindi è tutto aperto al pubblico. Sì. Cambio di scena un attimo. Nibel ti ha accompagnato il monaco nell'altra sala. È una stanza relativamente piccola, sembra più un magazzino che non... quello che avevano preannunciato. Ci sono una serie di casse di legno accatastate. Hanno delle targhette con dei numeri invece che dei nomi o degli altri identificativi. L'uomo che ti sta guidando sa esattamente che numero cercare, e quando lo trova estrae la cassetta, che ne aveva già altre sopra, e la mette a terra perché sembra abbastanza pesante, la apre, e all'interno di questa cassetta vedi che ci sono effettivamente 12 mana unit, abiti eleganti, quindi giacca, cravatta, camicia, pantaloni, scarpe, tutto molto elegante, molto costoso. Non so se portafoglio è il termine giusto, comunque un portamonete, un portamanapenny, e basta. Questi erano tutti i suoi averi. Sì, Nibel snappa un attimo nel momento in cui rivolge la parola, perché per tutto il tragitto non si è neanche accorto che... cioè, lo stava seguendo, però non... se dovesse ripercorrere la strada per tornare indietro non si ricorderebbe. Posso prenderli? Non mi interessa chiaramente nient'altro degli altri. È solo che quell'uomo ha un po' di gente da ripagare. Puoi prendere quello che vuoi. Lo ringrazio. Ora chiudo la cassa e prendo direttamente la cassa. Sfila la targhetta. L'unica cosa che fa. La tolgo. E la mette per la lascia sopra una catasta. Il tizio del mercato rigattiere gli aveva fottuto 12 mana unit. Sì. Ok. Sono proprio quelle. E, ne avrà di meno. Ne manca una, ne manca una. Cioè sono 11. Sono 11, ok. Ne avrà di meno comunque. Promezzi invece? Cos'era? 300 mana penny? Mi doveva? Sì, con una mana una roba simile. O una mana unit, ok. No, con una mana unit gli dai anche gli interessi. Sì, sì. Quindi ci sarebbe da dare, dico in meta, ci sarebbe da dare prima togliere quelle che dobbiamo consumare, cioè una a il tipo della nave. Una Daku. È una Daku, è una sì. Promezia, implicando che torneremo indietro, e le rimanenti le diamo a rigattiera, a meno che non volete tenere bene qualcuno, tanto il rigattiere non lo sa quante ne abbiamo ottenute, però ve lo dico a voi, decidete voi per tanto comunque. Ma tanto Nibel non ne frega niente in questo momento, quindi lo decideranno gli altri, quindi comincio a portarvele indietro, mi dico al fratello. La ringrazio e prendo e torno indietro, anzi poi ritorno di modo e infatti mi sa indicare la strada per la libreria. Il centro del tempio è a base quadrata, andando in una direzione o nell'altra arrivi comunque da dove sei arrivato. La ringrazio. Allora con la cassa ritorno dagli altri. Intanto che ritorna Adone, visto che mi sembra che Mif voglia consultare i documenti. Sì, e penso che sia andata tipo in full hyper focus, sì. Cioè nel senso ha preso tot libri, li ha aperti tutti insieme, si è seduto, cioè ha fatto un casino, insomma. Quindi Adone parla con Cici e Lieto e dice: ho bisogno di aria fresca, se restate voi qui serve che ci sia anch'io, al limite raccontatemi quello che avete scoperto. Va bene, fai un fischio se serve qualcosa. Cici annuisce e Adone s'allontana. Vorrei chiedere a Nibel se vai a sinistra o a destra, tutto qua. La risposta è sempre a destra. Sempre a destra. Sì, non ricordandomi neanche io dove, qual era la direzione, vado a destra. Ok, andando a destra arrivi subito da loro. Okay. Ho bisogno di un minuto. Prego. E poi arrivo. Adone a quel punto procede ad andare davanti alla grande porta meccanica e quadrata che costituisce l'entrata alla parte centrale del tempio, l'area che il cui accesso è vietato al resto del gruppo. Si ferma davanti alla porta, la fissa con espressione stoica, si guarda intorno assicurandosi che non ci sia nessuno, e mormora tra sé e sé con un filo di voce. La senti la musica? Quanto ti dà fastidio sapere che sei così vicino, eppure non puoi farci un cazzo? Pensavi di poter prendere controllo di me? Di fare quello che volevi, dovevi restartene all'inferno. Dovevi restartene all'inferno. Adone tira un pugno alla porta, con tutta la sua forza, quindi non moltissima, e si allontana, uscendo dalla porta principale. Se non c'è Sì, un sì, sì. cazzo, e ce li avevano loro, però la Magister li ha eliminati, quindi adesso bisogna vedere. Ci sono. Dicevo, vedete Adone che si allontana e siete davanti ai documenti. Dopo un minuto arriva Nivel, e quindi Nivel tu vedi Cici attaccata a a un muro, no, quindi a un asse di una, come si chiama, di una libreria. Lieto e Mif, cosa stanno facendo? E Lieto vorrebbe andare a leggere il primo, la prima anomalia Prima mai anomalia. recorded. Ok. Emif. Mif vorrebbe prendersi quella dell'anno dove hanno trovato l'uomo che ride a Brantica, e poi quelle che riesce a trovare che sono rimaste degli anni bui. Se Ok, sono rimaste, appunto. allora ne faccio una a testa, quindi faccio prima Sì. quella di Lieto. Sì. La prima mai recorded, che quindi non è la prima anomalia della storia, abbiamo già fatto questa distinzione, ma ci tengo a ripeterla perché è importante, è la scomparsa misteriosa del figlio di Sefin Leusum. Sefin Leusum, lo sapete tutti, è il fondatore della Università Sefin Leusum, la scuola di magia avversaria alla Zanitai, è la scuola di Lumiera, quindi del regno. Il record semplicemente lista che il figlio, non c'è scritto il nome, quando aveva tra i 14 e i 16 anni, quindi neanche il momento preciso è conosciuto, misteriosamente sparisce. Gli strumenti di cui è in possesso il tempio sono stati costruiti in seguito a questo evento e grazie a una magia è stato possibile verificare questo evento anormale. L'anomalia è consistente, verificata, e sembra che sia stato in concomitanza con l'apparizione di un'entità esterna, dove esterna è un termine jolly per indicare qualcosa che non sanno. Potrebbe essere diavolo, un demone, un alieno, dio di un altro tipo, non si sa. Qualunque, ogni volta che c'è entità esterna è qualcosa che non sanno. Non conoscono. Sì. E ok. L'anomalia è iniziata appunto circa nel V-VI secolo dopo Cristo, mi viene da dire, ma in realtà è dopo l'ascensione di Dio. Quindi in realtà è 70 anni dopo Cristo. E sembra essersi protratta, cioè gli effetti di questa anomalia sono andati avanti per quasi 1000 anni. Lo strumento, che non viene spiegato cosa sia perché danno per scontato che tutti i membri del culto, dell'ordine lo sappiano, ha continuato a dare le stesse vibrazioni per 1000 anni, quindi fino al 1400 circa, 1500. Ok, e la data di fine è indicata chiaramente o è solo lo span? No, lo span è di circa 1000 anni ed è cominciato circa nel VI secolo. Ok. Lo dici lieto questa cosa? Sì, Cioè, cioè, dici. sì. Se sei con me è un ragionamento a voce alta. Mif ti guarda e fa. Lumiera, giusto? A Lumiera c'è un tempio particolare, c'è. Ora. Scusami, non mi ha toccato la canzone. Una canzone generica, ma penso che non mi ha detto, oh mio Dio, adesso sto evocando qualcuno, va bene. A Lumiera, nei giardini dell'università, c'era questa cappella, mettiamola così, dove c'erano degli affreschi, ma c'era una targhetta con una statua. Ho l'impressione che questa statua sia stata fatta al figlio di Sefin Leusum. Mi tira fuori il suo librone degli appunti, apre le pagine, ti porge la cosa, e Ica ti mando una cosa su... Nibel vi joina in questo momento, mentre gli stai porgendo il librone. Quindi quello che vedi è Cici attaccata a una colonna, Lieto con una pergamena aperta e Mif che sta porgendo un librone a Lieto. Cioè tipo i tavoli come nelle biblioteche? No, qua, questa sezione qua sono solo librerie e sono così fillate da far fatica a passare. Vedendo da dove veniva Adelfo, ci devono essere delle scale che portano al piano di sopra dove ci sono effettivamente i tavoli. Sì. Che allora per ora mi metto lì all'entrata delle librerie e metto la cassa a terra. Non so se ve l'ho spiegato bene l'altra volta, il tempio è a base quadrata, c'è una stanza centrale senza né porte né finestre, che è tipo il centro del tempio, che è un cubo perfetto e è lì e non sapete cosa c'è dentro perché è chiuso. Fuori c'è un corridoio quadrato che fa il giro intorno e su entrambi i lati di questo quadrato ci sono le librerie. In alcuni punti ci sono delle feritoie, perché chiamarle finestre è una cazzata, sono molto fine, che fanno entrare la luce in corrispondenza degli spazi tra una libreria e l'altra. Era per darvi il setting. Sto guardando Sara che stava morendo nel frattempo che ho tossito, mi stavo soffocando e ho dovuto rottare nello stesso momento. Esatto. E la pressione è stata talmente tanto forte che mi ha colato il naso, cioè, quindi proprio ti ho mandato la cosa su Telegram. Mi hai mandato la cosa su Telegram? Sì, l'avete. Aspetta che La targhetta era particolare. Che la se vuoi interrompermi in nivel fallo. Okay. No, ti dico, cioè, entro, metto la cassa a terra e rimango lì in piedi con lo sguardo nel vuoto praticamente. Andate pure avanti. La cosa strana è che era in una lingua che io non comprendo. Sono riuscita a leggerla comunque e l'ho trascritta. E quindi sì, penso che parli di questo in realtà. Penso. Sto leggendo la cosa. Sì. Me la metti, cioè me la rimandi. Te la mando. Per favore, perché cioè, credo di ricordarmela, ma vorrei... Se vuoi te la leggo ad alta voce. Ah, leggila ad alta voce, leggila ad alta voce. Anche Cici. A mio figlio, che la fame ha portato via, che la superbia ha cancellato per sempre. Non sono stato il padre migliore del mondo, ma ho cercato di darti tutto quello che avevo. Non sono stato l'esempio migliore del mondo, ma ho sempre sperato che diventassi migliore di me. Non sono stato con te il tuo ultimo giorno e tu non sarai con me per il mio. In cambio di tutti i giorni che mi restano, il fato mi ha rivelato che un giorno leggerai questa targa. Vorrei almeno oggi essere un padre decente. Non ho consigli, beni materiali o privilegi da lasciarti, eccetto che il tuo cognome. Voglio solo che tu abbia la vita migliore possibile. Non posso sapere cosa tu stia facendo ora, né quale tragedia tu abbia passato, ma ti lascio un tesoro inestimabile, il più ultimo rituale. La confinazione definitiva, il sigillo supremo. Qualsiasi sia la minaccia per il mondo, oggi tu sei in grado di sconfiggerla. Non è che Mif sia segnata anche la cosa importante di questa targhetta? Cioè? A ti lascio un tesoro inestimabile, il mio ultimo rituale. Sì, si è... Cosa c'è? Cosa vieni? C'è qualcos'altro a questa targhetta? No, letteralmente... Mi è stato dettato. Cioè, tipo, adesso che Biff lo dice ad alta voce sembra stranissimo, però... Mi è stato dettato, non c'era nient'altro, solo degli affreschi veramente tenuti male e... Questo. Quindi non hai investigato idea. Oltre sul rituale. Su una targhetta che non so leggere, certo. Certo. E comunque... Una fame di conoscenza, vabbè. Tipo, mi fa... Senti, posso dire, dovevo fare una partita a scacchi con il signor Brooke. Dopo sono partita per aprire. Ok. Sì, c'è così. Cioè, Affari. Sì, tutti hanno giocato a scacchi con Brooke in questa stanza. Non rompere le scatole. Guardo Cici negli occhi. Tipo. Comunque, in ogni caso, dopo le trattative che ho fatto con lui, me ne sono andata. E dopo è successa la cosa del treno e mi sono diretta da Pera piuttosto che a casa mia. Dovevo proprio ritornare a casa e non venire in questo posto scialurato. Chi è che te l'ha dettato? Il suo dio. E tipo, almeno, allegedly, nel senso che... È una roba di Arva questa. Sembrava. Che schifo. Io ho una domanda da fare, Master. Io, Sara, sono riuscita a ricomporre l'affresco. Cioè, io so che dipinto era. Quello che c'era nella cappella. Mif c'è arrivata, nel senso io... Cioè, ci mi devi dire... Sì. Ok. Sentiamo. Il dipinto era quello di Urano che mangiava i figli, okay, giusto? Ok, Urano non lo puoi dire. Cioè, ok, in game, come posso... lo puoi dire. In game, certo. Come Urano cazzo posso... è il dio del tempo. Esatto, quindi è Arva. Sì. E Arva mangiava i suoi figli? Sì. Ok. Sembrava almeno. E posso dire, il fatto che la fame abbia portato via questa persona combacia un po' con... Sì. Sì. Ok. Quindi il signor Leosum ha dato la sua anima ad Arva? No, che potesse... è suo figlio. E la persona... che gli ha permesso di conoscere il futuro, molto probabilmente, è Arva. Sei sicuro? Perché non so se gli dèi facciano sigilli. No. Io stavo solamente parlando del... Dov'è la parte? Il fatto mi ha rivelato che un giorno leggerai... Il cambio di tutti i giorni che restano, il fatto mi ha... Esatto. Che cazzo era il dio del destino qua? Cloppo, grazie. Ve lo dico perché lo sapreste. Sì, infatti, no, non me lo ricordavo io. Quindi, ha fatto qualcosa con Cloppo. Cloppo gli ha rivelato qualsiasi cosa sia, però il fatto che sia un sigillo non mi sa da divinità. E molto probabilmente quindi l'anomalia che loro hanno registrato era il figlio di Sefin Leosum che veniva prelevato dal suo momento e mosso avanti di mille anni. Può darsi. Che è il momento in cui è ritornato ed è per quello che ha letto la targa che il padre gli aveva lasciato. Esatto, e quindi significa che o è esistito o esiste ancora. E hai detto del 1005? Finisce i mille anni segnati? Un po' prima, perché partivi dal VI secolo, quindi 500 e rotti, cioè prima del 599, e sono circa 1000 anni, quindi potrebbe essere 900, potrebbe essere 1100. Non erano 1000 anni spaccati. E quindi potrebbe essere qualunque anno dal 1400 al 1500. Ok. Deve tranquillamente essere posto, Sara. Sei strozzata di nuovo. Ok. Prendi il peato. Scusate, non so che dire. Questa volta I am a machine that turns water into death. Ci sono, scusami, puoi ripetere le ultime cose che hai detto? Io ho lui. No. Chi è che ha parlato? Non lo so. Io, okay. Mi stavo chiedendo quale fosse l'anno e il, sono i 100 anni che vanno dal 1400 al 1500, in cui potrebbe essere effettivamente tornato il figlio di Safin Leusum. Sì, e... beh, se è un avatar significa che può esistere ancora adesso. O sì, è stato imprigionato, o è ancora vivo, o è morto. Lo sto segnando negli appunti. Sì, vai. Poi e... si gira verso Nibel e fa... Nibel, tutto a posto? Hai trovato quello che cercavi? Sì. Ho la cassa degli averi di Adelphi. Ci sono... Ottimo. 11 mana unit. Dei mana penny, non li ho contati. Dei vestiti. In altra robaccia. I vestiti li possiamo vendere. E... perfetto. Possiamo andare via da quest'isola. Mi commenta perché sta avendo un breakdown. Sì, con 11 mana unit abbiamo sicuramente bisogno di vendere i vestiti. 11 mana unit? Quanti milioni di euro sono? E... sono... qua pochi in realtà. In un'isola sono pochi. 110.000 euro. Sì, la leggera differenza... Neanche una casa ci si può prendere, cazzo, in questa economia. Case in questa economia di Fated costano un centinaio di mana penny. Okay. E la reggia di Erindor, che era una reggia a due piani, non so quanti chilometri quadrati di giardino eccetera, veniva una mana unit e c'aveva anche i soldi per fare i lavori. Quindi Nibel, quante mana unit hai trovato? Due, vero? Una amico, dobbiamo amico, dare amico. Una dobbiamo dare la Promezia. Una dobbiamo darla ad Aku. Facciamo anche due, visto che ci ha aiutato. Di quello stronzo di Aku vuole una mana unit per fare avanti e indietro da quell'isola di merda. Beh, sai no, com'è? No, non possiamo andarcene senza questa. Sì, no, è il carburante della sua macchina, della sua nave. La nave dura settimane, se non mesi. Cioè, dipende cosa devi farci. Sì. E poi il rigattiere... ha chiesto se quando lo trovavo di riportargli le mana unit che Adelphi aveva rubato. Sì, chiaramente non è possibile ridargliele indietro tutte quante, però... Sì, le mani mi ci rimangono attaccate, effettivamente. Sono un po' appiccicatrice. Guardo quante... Ah, tra l'altro, le mana unit dove sono? Cioè, ci sono dei... No, le mana unit non hanno nulla, sono delle sfere perfette. Quindi non hanno nessun segno, non c'è modo, per quando ne sapete, di capire da dove vengono. Allora guardo Miff e Lieto e dico: se i mana penny hanno, chiamate la identità in base a dove arrivano, perché le mana unit no? Prova a castare, come si chiamava quella che sapevamo castare con i mana unit, con le mana penny. Credo sia una buona idea farlo qui. Infatti c'è tipo Biff che guarda Lito così. Oh, l'ultima volta sono saltato in aria un paio di pareti. Usciamo fuori, ci mettiamo all'aperto e ci proviamo. No! No, cazzo, lo ammazzi! Oh. Non è solo quello, Lieto. L'incantesimo fa progredire la mia malattia, quindi devo... Punto. Usarlo soltanto in momenti quando necessario. Esatto. In ogni caso, se... non sapevamo che Adone aveva la cosa per salvarla, aveva scelto di non farlo. O no? Esattamente. Non so Adone, ma era Glauco. Poteva curarmi, ma ve l'avevo detto. No. Io adesso stavo parlando di... della... pergamena? Che ho trovato Adone l'ultima volta. No, il cristallo. Cristallo. Che non aveva voluto. L'ha trovato lui. È una sua scelta. Tanto l'hai visto. Cioè, nel senso che sta peggiorando e basta. E onestamente dovremmo prendere dei provvedimenti prima che succeda quello che ci ha detto Arma. In ogni caso, ci possiamo fermare da Glauco se desideri, mentre andiamo al ritorno. Non morire. Non lo so, non ho ancora deciso se voglio farlo, onestamente. Desideri fare qualcosa alla Mucelos? Sì, trovarla, fargliela pagare, poi eventualmente abbandonarmi alla malattia e ritornare alla mia famiglia. L'idea era quella, già da prima. Ah, un attimo però, aspetta, prima che mi dimentichi, volevo condividere una roba con voi due, che era il train of thought finale. Vai. Sul ritorno del figlio, di cui non sappiamo il nome, o sappiamo il nome? Non sapete il nome. Non sappiamo il nome. No. Quindi... Vabbè, dov'è che aveva studiato Pseudocelso? Dov'è che aveva studiato Pseudocelso? Mif lo dovrebbe sapere. Mif lo dovrebbe sapere. Secondo. Pseudocelso era tipo il signor studio, cioè non l'ha inventato lui lo studio. Perché voi volete una roba dettagliata che vi dirà Cici tra un secondo. Perché ve la voglio dire in ordine per bene. Cici ha fatto l'università, cioè alle scuole ad Oclica, quindi sta roba si studia. E poi è uscita ieri dalla scuola, quindi. Sì, esatto. Madonna, veramente. Pseudocelso è nato a Umseda, che è nel cantone di Veria, quindi nel regno Sefino, tecnicamente, credo. Ha fatto le scuole basilari, quindi l'equivalente delle medie, lì. E appena ha potuto è andato a studiare sotto Celso. Celso era il rettore della Zenitai. Quindi ha studiato alla Zenith. Dico alla Zenith perché le ha fatte tutte. Cioè, è come diceva... Celso, nello specifico, era laureato alla Zenith Mistral, che è quella di Chai Roma. Però poi era diventato rettore della Zenitai, che era la più importante di tutte, e quindi si era trasferito lì. Celso le ha... dall'Occidente all'Oriente ha studiato in ogni luogo, e comunque viene esaltato il fatto che avesse comunque dei contatti anche con le scuole non della Zenith. Ok. Perché... mi sembra di capire che fra i 1450, per dargli a metà, torna il figlio di Sefin Leosum con un sigillo, con il sigillo supremo, esatto, e neanche 100 anni dopo, o comunque poco più in là, apriamo la prima centrale di Mana. Hanno le centrali. Sì. Avrebbe e le senso. Centrali sappiamo che sono loro che mettono dei sigilli sugli avatar. O li usano in qualche maniera per il signor Celso e Pseudo Celso hanno scoperto come sfruttarli successivamente. Se solo qualcuno ci avesse dato abbastanza tempo per chiederglielo, Mif guarda Lieto. Magari glielo puoi chiedere tu, Lieto, visto che ti sei mangiato la sua anima, piuttosto che farlo sposare. Effettivamente, è un'ottima idea. Perché... a proposito, quella di Pseudo Celso è stata un'anomalia, il fatto che si fosse trasformato o qualcosa del genere? Hanno dei cataloghi, hanno qualcosa? Non è una... cioè, non hanno scritto nulla a riguardo. Ok. La roba che ha scritto adesso ad Elfo e ha messo nella libreria è dall'altra parte del mondo. E... c'è un penultimo... cioè, prima dei 50 anni di vuoto. 50 anni di vuoto? Erano 50? Certo. O 10, quanti... Non è preciso, vabbè, perché non è che è un vuoto secco, è che lentamente sono diminuite le notizie, finché poi okay, non ce ne sono più state. L'ultima di quel periodo, l'ultima prima del vuoto ed eventualmente la prima dopo il vuoto. Sì, ce l'ho qua portata in mano, mi devi dare un secondo. Sembrerebbe essere la comparsa e poi la sparizione dell'uomo dalle ali nere, accompagnato da vari avatar stranamente al suo servizio. Questa è una storia, cioè una storia abbastanza strana e complessa. Te lo diciamo tra un attimo. Una storia abbastanza strana e complessa. E l'anomalia è l'uomo dalle ali nere, cioè lui è una cosa che non dovrebbe esserci nel mondo. È proprio un errore. Stai zitta. Tipo... Per ora stai zitta. Perché la sta leggendo lieto ad alta voce, no? Questa cosa, quindi fammela dire sì, tutta. Sì, è andato lì e la sta leggendo. Okay. A causa del fatto che lui era un'anomalia, tutto quello che toccava diventava anomalo. E quindi ha creato un sacco di robe strane. Cadute di meteoriti, fulmini, cambiamenti climatici interamente localizzati nella cucina di casa mia, cose del genere. Questo... Posso vederlo? No. Ok. La cosa si è protratta per un periodo di qualche settimana, forse un paio di mesi, non anni. E... Ah no, aspetta. C'è stato un periodo di quiescenza dopo la sua apparizione. Dopo il periodo di quiescenza sono ricominciate le anomalie e questa cosa è durata un paio di settimane. Ok, vi ho dato la timeline completa. La timeline completa finisce con un'altra anomalia che consisteva nel fatto che è sparito dal mondo. Ha cessato di esistere. Il record parla del fatto che nel frattempo questo tizio e i 3-4 avatar che si portava dietro, hanno incontrato Celso, il maestro di Pseudo Celso, hanno incontrato Morgana Laconia, che per qualche motivo viene citata, hanno ucciso alcuni nobili che regnavano nella zona, cambiando per sempre il piano politico, economico, sociale della zona. Tipo, c'è un'isola che è una specie di utopia comunista perché hanno sterminato i nobili. Hanno fatto una serie di robe del genere e al termine di questa cosa molti degli avatar sono o morti o alterati, qualunque cosa voglia dire, non entra nei dettagli di questa cosa. E finisce qua, cioè la pergamena non dice tanto di più. Voglio andare da Glauco. Glauco mi ha parlato di questa cosa, no? L'anno in cui hanno riportato a casa l'angelo. Sì. Alla fine della pergamena c'è una freccetta. Cetta. Che dice che questa anomalia è legata alla anomalia del 1489. 1489, siamo nel centro delle anomalie strane. Cioè, è proprio il momento... Esatto. Le anomalie, cioè il periodo di vuoto. 1489 è più o meno il punto dove non c'è più niente, perché dopo iniziano ad esserci gli scritti nuovi e prima c'erano gli scritti vecchi. La pergamena è nella libreria a fianco, cioè la potete prendere. La prendo. La pergamena non ha testo, ha solo un sigillo. Ah. Cioè c'è scritto pergamena del 1499 concernente... E poi c'è un sigillo. Sì. Cosa? Non l'hai mai visto. Ok, dopo andremo a chiedere. Cioè, Miff che fa? Dove ce l'hanno un bagno in questo posto? Non ne avete visti, anzi vi hanno detto che fanno gli escrementi all'esterno. E beh, io chiedo al primo officiante se posso avere una copia della pergamena. Non c'è nessuno intorno, ma Miff... Sì, ciao. Ma Cici commenta. Quello si può attivare. Come? In che senso? Lo conosci? Sono le dispense universitarie. Ah? Praticamente puoi registrare una lezione e quando lo attivi viene fuori tutta la lezione per risparmiare tempo. Quindi questa è una registrazione? Non so se è il termine giusto. Cioè, è una riproduzione? Sì. È una lezione. Sono dati? Sì, se la attivi, Tipo, siamo sicuri che questa sia una lezione e non qualcosa che ci farà morire sì, tutti. Sì, l'ho fatto cioè, un sacco adesso, di volte, parliamo. Ti sposta e ti prende la scuola. No, oddio, oddio! Guarda! No, no, no, no, no, lo faccio io! Okay. No, ragazzi! Ok. Biff si allontana un attimo, tipo, gira un attimo l'angolo e fa, scusate, io me ne vado. Cioè, proprio te fa... Ne vai? Sta dietro l'angolo un attimo e okay, faccio quella da... cosa che... Perfetto. Rimanete cici. Nibel e Lieto con la pergamena. Sì. Attivi la pergamena? Attivo la pergamena. Stella, per favore, smutati. Salve. Ciao. Ho bisogno di cambiare musica, perché chiaramente questa musica non è neanche lontanamente adatta alla cosa che stiamo per fare. Oh, yes. Aspetta, te la mando io. Finally. Non so cosa vuoi mandare, io avevo una canzone specifica per questo genere di stronzate. Ne ho una anch'io. Aspetta, dove cazzo è finita? Che è questa? Dimmi te se vogliamo farla così o vuoi che aspetto la tua... Aspettare 2 secondi, vado in bagno. Sì, sì, sì. Io te l'ho mandata su Telegram, se vuoi te la mando su Discord. No, no, no, va bene, su Telegram e poi arriva. Ovviamente dimmi prima. Ciao Stella, come stai? Ti ho interrotta da qualcosa di più interessante di questo? No, no, figurati. No, anzi, volevo entrare io solo per un attimo di... Non metterò Baby One More Time. Grazie per averlo proposto. Oh. Ma, guarda meglio, perché non è semplicemente Baby One More Time. Baby One, epic version, certo. Wow! Io ti consiglierei di fare un ascolto appena hai tempo. Volentieri. Madonna. Perché secondo me per un momento qualsiasi di una campagna è perfetta. Non sono abbastanza multitasking per fare quelle cose che serve. Ma non ve ne manca uno? No, per una serie di motivazioni. Ah, ok. La risposta è sì, ce ne manca uno. Però... Per una serie di motivazioni. Ne facciamo a meno. Facciamo a meno. Ok. Anzi, faccio la sua scena, tanto che non ci siete. Arrivo subito. Cosa? Madonna, nel frattempo, è seduto fuori dal tempio a osservare l'orizzonte, interrotto dalla nebbia e dal grande Senic che occupa quasi tutto lo spazio visibile. Sospira e ti parla tra sé, se incurante dei fratelli che girano intorno. È bello sentirsi liberi. Mi chiedo se questa sarà l'ultima volta. È ancora più bello sapere che tu sei chiuso qui dentro e non puoi farci niente. Ma sento già che sto perdendo il controllo. Ma quando riprenderai il controllo tu saremo già lontani da questo posto e non potrai farci niente, non potrai tornare indietro, non potrai aprire quella porta. Non è niente di che, ma interrompere il tuo piano, un piccolo momento di libertà, una piccola rivincita personale e tutto quello che posso fare per me per Silas. Per la mia. Non meritavo questo. Tra l'altro, Disney is exiting their 1 billion investment. Allora, assumendo che ci siamo tutti, sì, ci siamo. Dammi un vibe check. Vibe check. Rimetti la baria. Sappiamo pure questo. Stella? Okay. Sì. Ok. Questo lo vedete tutti. Mettere il loop magari la canzone così. Non, se... in loop, non so perché è uscita prima. Cioè, ah, boh, okay. Fa un po' quello che cazzo gli pare. Mentre tu questa cosa la vivi. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che hai visto i tuoi amici. Non ho bisogno di farti un elenco completo, ma sai benissimo di chi sto parlando. Sei a buon punto del tuo piano. Hai fatto avanti e indietro tra i luoghi che solo tu puoi visitare. E alla fine hai pinpointato la persona responsabile di quello che hai visto. Uso il maschile perché il personaggio è un maschio, giusto? Assolutamente sì. Perfetto. Hai visto un momento in cui potevi interagirci, e poiché non sei il tipo da a fare le cose violentemente se non è strettamente necessario, la tua idea era quella di parlargli, di persuaderlo, di fargli capire che non finiranno bene le cose se vanno come vuole lui, e quindi sei nel suo studio. Pseudo Celso ti sta dando le spalle, sta mettendo a posto dei libri. E cosa vuoi fare? Inizierei semplicemente parlandogli. Ehi! Si gira, colpito notevolmente da questa cosa. Ehi! Credo che tu sia la persona che sto cercando. Può darsi. Molti mi cercano. Tu stai a cosa stai andando incontro? Sto salvando il mondo. Non è quello che stai facendo. Non ti senti un po' egoista a credere che sia il tuo il modo di salvare il mondo? E non ti senti un po' egocentrico a pensare di poterlo salvare tu? Faremo una democratica scelta. Tutti potranno esprimere il loro voto e faremo quello che decide la maggioranza. Se loro decidono che il mio modo è quello giusto, vorrà dire che gli umani hanno scelto. Ti chiedo di ascoltarmi. Non è la scelta giusta. Ho visto cosa succederà. Non sarà bello. Penso che ci sia solo un modo per fermarmi. Non è quello a cui voglio arrivare. Ma è l'unico modo che hai. Per cui, vattene dal mio studio oppure dimostra che ho ragione. Ragione su cosa? Sul fatto che quelli come te sono pericolosi. Quindi mi stai chiedendo o di combattere con te o di lasciarti fare del male a persone, animali, persone innocenti, oppure dimostrarti che hai ragione tu. Mi stai costringendo, non è così che funziona. Altri modi per uscirne. Potresti far leva sulla tua stessa coscienza e pensare: lo sai che quello che ti sto dicendo è vero. Io so solo di aver visto innumerevoli avatar fare delle carneficine senza motivo. non tutti gli avatar sono uguali. Non puoi fare di tutta l'erba un fascio. Aspetteremo che ci siano avatar meritevoli di essere fermati. E quindi nel frattempo vuoi drenare il pianeta della sua stessa forza vitale? Ti sembra corretto? Questo è l'unico modo per salvarlo. Non credo. L'uomo si siede sulla cattedra, sulla grande scrivania che c'è. Hai altri argomenti a tuo favore o possiamo passare alla parte divertente? Non ho intenzione di combattere con te. L'uomo manifesta un libro nella sua mano, lo stringe e dice: sarà molto più facile per me allora. E quindi secondo te gli avatar fanno solo carneficine e tu cosa hai intenzione di fare adesso? Uccidermi? No. Uccidere gli avatar è la cosa più stupida che si possa fare. L'ho imparato bene vedendo le vostre azioni. Tu e dei tuoi amici. Ho un'idea molto più intelligente. Scommetto che conosci questo. Ti mostra un sigillo di un diavolo. In questo momento esatto mi sfugge il nome, è il diavolo dei sigilli, che okay. Sara conosce sicuramente. Io ho già capito dove stiamo andando a parare. Dammi un secondo perché se non vedo il nome vado fuori di testa. Credo sia Xarom, non ne sono sicuro al 100%. Sì. Grazie di avermi fatto visita. Apprezzo il tentativo. Magari non ti fermerò oggi, ma lo farò, non ti preoccupare. Tornerò. In bocca al lupo, toccando il... Casto bolla temporale. Su di lui? Sì. Ok. Il sigillo era finto. Mm-hmm. Okay. Non era fatto con l'inchiostro magico, era fatto con l'inchiostro. Quando casti bolla temporale, compare un sigillo traslucido sotto i suoi vestiti, gli era stato tatuato sul petto, okay. Per rispondere alla prima magia del tempo che gli sarebbe stata castata. Porca puttana. Per cui la cancella e non ti uccide, ti manda avanti nel tempo. Ok. Ti manda avanti nel tempo fino alla fine dei tempi. Quindi quando c'è la morte termica dell'universo, c'è l'oblio, c'è il niente, e ora ci ricongiungiamo con gli altri, la pergamena che avete attivato vi mette in comunicazione con questa persona. Vuoi fare la descrizione? Noi non abbiamo visto niente di tutto questo. Avete visto tutta questa cosa qua quando avete attivato la pergamena, cioè questo Celso, pseudo Celso che conoscete perché l'avete visto. Sì. E questo individuo puoi descrivere se vuoi. Mi vedono? Sì, giustamente avete visto tutta la... Vedete... Beh, descriverò molto semplicemente, è un... ragazzo di circa 18-20 anni con una lunga tunica azzurra, i capelli bianchi e la pelle molto chiara, capelli bianchi e lunghi, gli occhi viola se non mi sbaglio, sì, adesso non ricordo esattamente la descrizione. Scusate, tossendo da matti. Tu saresti... Non ho mai visto una pergamena del genere. Miff, sei anche parlato dentro tutti sta insieme, cosa. Ho capito un cazzo. Sì, ha avuto effetto anche su di te. Però ti sei circa persa all'inizio. Cioè, non hai visto benissimo la roba di Celso, come se l'avessi sentita dall'altra stanza. Potete però interagire liberamente con questa persona. domanda molto a caso, io li vedo? Sì, e non hai la più pallida idea di cosa stia succedendo, perché per te è passato un secondo da quando hai castato la spell a quando è successa questa cosa. Ah, ok, proprio quindi subito dopo. Sì, e l'altra cosa stronza è che la magia non funziona. No, ok. E voi chi sareste? E tu chi sei? Ho fatto prima io la domanda. E io sono lieto. Lieto anch'io di conoscerti. Voi due invece... Qualcuno l'ha usata, qualcuno l'ha fatto, sì! Sì! Campagna finita. Ma stai... Lieto si suicida. Titoli di coda. Persona! Quella è carta che parla? Cos'è quella cosa? No, mi vedete fisicamente. Sì. Cioè no, è che Nibel non ha mai visto una pergamena che fa magia del genere. Ah, ti risponde Gigi, che dice... In genere non è così. No, no dai, guarda, non Gigi. C'era nessuno, Cici. No, perché... infatti, veramente. È in genere con me. È tipo... È già strano che... Non è normale lo stesso una cosa del genere. Intervengo. Siete... Un gruppo abbastanza strano e devo dire anche molto maleducato, visto che ancora non vi siete presentati. Solo perché sono lo farò io. Sì, sì. Non è per il colore della pelle, è per da dove vieni il problema. Okay. Io non vedo bene i colori. Comunque mi presento. Il mio nome è Aidur Leusum. Leusum? Sei il figlio di Sephir Leusum? Sì, e sì. Ah, hai tipo 2000 anni. Super giù. Ah. Ho perso il conto dopo i primi 1000. Ah. È una persona famosa? Sephir Leusum, sì, il figlio... Il figlio tecnicamente per un'anomalia temporale è stato risucchiato dal mondo, ma a quanto pare sei qua. In realtà fino a qualche minuto fa stavo parlando con una persona e poi mi sono ritrovato qui. Che anno era quando stai parlando con questa persona? Qua devo chiedere un aiuto perché non ho la minima idea di capire cosa fosse. Che neanche Aidur lo sa. Ah, perfetto. Non lo sai perché non te ne frega un cazzo. Sì, giustamente. Non ho idea di che anno fosse, non... Come vi ho detto, ho smesso di contare gli anni dopo il millennio. Sono vivo, so meno di 100 anni fa. Sì. I'm gonna say... Dovevano anni. Ancora fare la votazione, quindi probabilmente prima della fondazione delle centrali. Prima, vero. Bianic, secondo te Nibel conosce il nome del padre? Sì, anche solamente come il tizio della scuola. Cioè, è la scuola più, la seconda scuola più importante. Una delle due scuole più importanti del mondo. Quindi lo conosci per forza. Cioè, come Oxford o Cambridge. È il signor Oxford, questo. Ok. Ok, sì. Aspetta, avete detto che le centrali sono state costruite? Sì. Funzionanti anche. Da un bel po' di tempo. Un'ottantina d'anni. Quindi l'ha fatto davvero. Un'ottantina d'anni. Ok, voi siete d'accordo? State cercando di fermarli? Io mi sono mangiato l'anima di Pseudo Celso di recente. Cos'è che hai fatto? Ti ha vendicato. Oh, non sono morto. Quindi non credo. It was not for you, but... Come gli faccio l'amico? Questa è Cici? Sì, questa è Cici. Cioè, è l'unico personaggio che si è in crescendo. Ah, Cici arriva uno scappellotto, tipo... Smettila. Tu non hai giocato a scacchi col signor Brook? Non puoi parlare. Avrei perso. Si trasforma in un boss con questa musica di dovere. Il punto non è vincere, il punto c'è la barra della vita di Cici. Mi sembra di sentire qualcosa di familiare in te, Lieto, hai detto, giusto? Lieto, sì. E Lieto. Anche tu sei adesso, un avatar di Arva? Adesso riconosci questa persona? Ricordi quando sei asceso al rango di avatar? Yes. Ricordi che c'era una schiera di persone? Sì. L'ultimo era questa persona qua. Ah, ok. E allora sono il tuo successore. Auguri. Non ho intenzione di fare i soliti errori. È stata scelta o ti ha costretto? Abbiamo tirato a sorte. Cioè, la scelta è stata tirare a sorte. Ok, quindi vi ho costretti. No, la mia è stata una scelta, figurati. L'alternativa fosse Adone. Non ho idea di chi sia. Tornando a noi. Un altro avatar. Tipo... Le centrali. Oddio, Adone. Non le mi centrali. Interessano gli avatar. Le centrali. Sì. Non mi avete ancora detto che cosa avete intenzione di fare. E Nibel le vuole far saltare in aria. Ok, tu mi piaci. No, ma giusto, Nibel, non mi pare di aver capito male le tue intenzioni. L'idea iniziale era quella. Il problema è che alcuni avatar sono riusciti a liberarsi dalla prigionia delle centrali e hanno fatto casini e basta. Stiamo parlando ovviamente. Di stragi. Ok, cioè, quindi non è ovviamente imprigiona un leone e vedi cosa fa quando esce. Cosa cazzo è un leone? da dove viene il Leusum qua? Dalla Nadiri. Ed è un nativo, eh? Cercate di capire, 2000 anni di cose io... Ogni tanto confondo universi. Ti prego, basta. I can't. E quindi nulla. Avete comunque per la povera gente, cioè non è giusto che la assolutamente gente è molto fare. Meno ideale che il mondo finisca per colpa di Teo Celso. Ma sì, come dovrebbe finire il mondo? Tutti, esatto, cioè. Abbiamo sentito un pochino entrambe le campane di questa cosa e non dico che hanno, ci sono dei lati corretti di entrambi, no? Non mi sento di criticare troppo nessuno dei due, quindi... Beh, ricorda che le centrali si prendono l'energia dagli avatar, ma è la stessa energia che tiene in piedi il mondo stesso. Viene riciclata. Cioè, sai qualcosa riguardo alla nascita della magia negli esseri umani? La nascita di Cristo? Ah? Ah? Ah? Scusate, sono un attimo confuso. E la nascita della magia degli esseri umani cosa intendi? L'anima. Sì. Ah. Illuminati. Cosa ne pensi? Dici di più. La magia ci è stata donata dagli dèi. Quindi l'anima vi è stata donata che... dagli dèi. L'anima faceva già parte dell'essere umano. No. Sappiamo che è nata, virgolette, circa migliaio di anni fa. L'anima? Sì. 5.000. Mm? 5.000, non 1.000. Sorry. Sapevo una storia diversa io. Ma come giusto che sia, cambiano i tempi, cambiano le storie. Beh, ad essere onesti, in realtà ce l'ha detto Pseudo Celso, quindi i tempi sono quelli. Ah, e voi vi fidate di quello che dice quello che ha costruito le centrali? Che ha migliorato il tenore di vita di questo mondo? Beh, insomma. Era l'unica persona che ci ha detto questa informazione che fino a poco tempo fa era completamente sconosciuta. Non è che avevamo molta scelta su chi possiamo fidarci. Se hai una versione alternativa che sembra avere più senso, ti ascoltiamo. Sono contento di poterla ascoltare. Ciò che voglio insegnarvi come prima cosa è: non tutto quello che vi viene detto dalla prima persona che ve lo dice è reale. Le persone soprattutto, assolutamente, anche quello che dico io potrebbe non essere vero. Non avete motivo per fidarvi di me. Ma ha ragione, chiudo la pergamena. Fidarsi di me. Sono sparito. Addio. Mi fa giocare a memoria per evitare che tu lo faccia. No. Continua pure, scusa. Tranquillo. E, nella vasta storia del nostro mondo abbiamo già visto succedere che dittatori, tiranni e tutto ciò che c'è attorno hanno mentito alla loro stessa popolazione pur di arrivare al potere, manipolando la stessa storia. Perché non dovrebbe essere lo stesso anche ora? Ricordiamoci che in questo momento, da quello che mi dite, al potere c'è proprio lui. Morto. Lui è morto. C'era lui. Lui. In realtà, cioè, il potere lo... non sappiamo com'è andata. Cioè, ora lui ha fondato la gente. Che ha ereditato il suo ruolo è tipo il CEO delle centrali e ha un ruolo amministrativo. Esatto, nulla di più. Ok, quindi sta portando avanti senza sapere nulla di quello che sta facendo. Possibile. Mif lo conosce meglio. Abbiamo sempre. Tu sei Mif, giusto? Ok, io sto imparando i nomi. Tipo, Mif dice di no. No, non sei Mif. Sei tu, no. Mif, e guarda Nibel. No, non sono Mif. Sono Nibel. Ok, quindi... tu sei Nibel, ok. Chi cazzo è Mif? Non io. Quindi sei tu. Perché mi hai detto che non sei tu? Mi menti? Non c'è uscito paura? No, non hai risposto alla nostra domanda. Hai tentato di agglomerarci nella tua causa, ma non hai risposto alla nostra domanda. Scusate, mi perdo tanto nelle mie parole e... ho notato. Sappiate che la vecchiaia porta anche a questo. Ah, tra l'altro, quindi non l'avevo detto questa domanda. Cosa. Quanti anni ti mostra? La ventina, l'ha detto quasi subito. Okay. In realtà. All'inizio. Ok, allora non lo sento io. Tra i 18 e i 20. Però sapete che sono circa 2000 anni. Quindi qual era la domanda? Su che cos'è l'anima, quindi? Da cosa è nata? Da queste cose qui, insomma. Ah. Giusto. L'anima ha sempre fatto parte dell'essere umano, non è qualcosa che è stato creato esternamente. Ogni essere umano possiede un'anima. Ma non solo gli esseri umani possiedono un'anima. Esatto, assolutamente. In questo momento stavamo parlando degli esseri umani, però quindi ogni essere vivente possiede un'anima. Qualcuno anche più di una. Esatto. Credo, sì. Non è qualcosa che ho studiato approfonditamente. No, questa è un'affermazione. Non è... Okay. Abbiamo una certezza di questa cosa. Buono, cioè, io e gli altri due non l'hanno vista. Ok, non voglio sapere. Cos'altro volete sapere? Sono disponibile a rispondere a ogni vostra domanda. Cos'è? Cosa serve? L'anima? Sì, perché gli dei ci interagiscono in un modo e i diavoli in un altro. È solo il tramite tra il divino e l'uomo. E chi non ce l'ha l'anima? Trova comunque il modo. Qualcuno ce l'ha. E che mi dici di quelli che nascono senza magia? Che mi dici di quelli che nascono senza un arto? Bel take. Ha senso. E che quindi la tua idea contrasta con quella di Paracelso sul fatto che l'anima non è qualcosa che è arrivato dopo, ma è qualcosa che ha sempre fatto Qualcosa parte di di noi. nato. Esatto. E chi è che te l'ha detto questo? Era, diciamo, conoscenza comune. Da dove Prima che veniva questa conoscenza comune? a quanto pare venisse deviata dalla Rispondi alla storia domanda stessa. di dietro. È uscita una mano che è tipo da sotto il tavolo. Rispondi alla domanda di Prima di dietro. tutto, girl, anche meno. Sei diventata Giovanni del Team Rocket. Mamma mia. Con il gatto, con te. Always at Permettimi di pain. dire. Era conoscenza comune, e come faccio a spiegarvelo? Ok, non lo so. No, nel senso è qualcosa di risaputo sul, è come dire, perché dobbiamo bere l'acqua. Non c'è qualcuno che mi ha E mai spiegato Lieto perché si sperde dobbiamo bere l'acqua. nell'spiegazione del perché agli esseri umani serve l'acqua. Non sono esattamente uno studioso, però non dovrebbero esserci delle teorie e degli studi riguardo a determinati argomenti? Cioè, come ha fatto Paracelso o Pseudocelso ad arrivare alla sua conclusione? È possibile che ci fossero degli studi anche in epoche passate. Non sono però studi a cui ho partecipato o di cui mi sono informato personalmente. I miei studi erano rivolti ad altro. Quali erano i tuoi studi? Nei miei primi anni di vita, i miei studi erano molto rivolti alla magia basilare e alle magie del tempo, motivo per cui sono diventato a Tarnidarmo. Dopodiché, tutti i miei studi sono andati sul come fermare le centrali. Non vi ho detto perché so delle centrali, vero? We learned as much e abbiamo trovato la perché ti ha lasciata tuo padre. La cosa? Prego, Mif. Alumiera. Alumiera. Prego, Mif, leggi la targhetta che ti sei salvata. Biff che tira fuori il suo librone di nuovo e datemi un attimo, la devo trovare. Fa. A mio figlio, che la fame ha portato via e che la superbia ha cancellato per sempre. Non sono stato il padre migliore del mondo, ma ho cercato di darti tutto quello che avevo. Non sono stato l'esempio migliore del mondo, ma ho sempre sperato che diventassi migliore di me. Non sono stato con te il tuo ultimo giorno e tu non sarai con me per il mio. In cambio di tutti i giorni che mi restano, il fato mi ha rivelato che un giorno leggerai questa targa. Dovrei almeno oggi essere un padre decente. Non ho consigli, beni materiali o privilegi da lasciarti, eccetto che il tuo cognome. Voglio solo che tu abbia la vita migliore possibile. Non posso sapere cosa tu stia facendo ora, né quali tragedie tu abbia passato, ma ti lascio un tesoro inestimabile. Il mio ultimo rituale, la confinazione definitiva al sigillo supremo, qualsiasi sia la minaccia per il mondo, oggi tu sei in grado di sconfiggerla. Vi chiude il libro, se lo mette via. Notate, direi che potete notare tutti la faccia di Aidur che è diventata molto cupa. Quindi non ci sei mai passato davanti, vabbè, vai. Dietro Aidur compare una figura che per ognuno di voi dovrei darvi una descrizione dettagliata perché ognuno di voi vede una cosa precisa. Però ma lo definirò come un becchino che cammina con le braccia dietro la schiena, molto elegante e molto distinto. Cammina verso di voi, si mette a fianco ad Aidur e con la sua voce nasale dice: non pensavo che mettere questa cosa alla fine del tempo sarebbe servita veramente, ma ora che l'ha fatta, tira fuori un cavolo dalla schiena. Oh no. Ti mette un braccio intorno al collo e dice: abbiamo tutto quello che ci serve per salvare il mondo. Vi lancia il cavolo in faccia, il libro si chiude, la pergamena si chiude e voi ritornate nel corridoio. E la sessione finisce qua. No. Oh no.